get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera da Caterina, Deborah e Laura e benvenute alla nostra 32esima trasmissione. Bisogna riconoscere che quattro pagine di una rivista corredate da tanto di fotografie a colori sono decisamente da considerarsi una notizia importante, soprattutto se, almeno per me, il titolo è Due cuori in campo, diritto di Saffo. Ma di cosa, o meglio, di chi si parla in quelle quattro pagine? Amélie Mauresmoe, una tennista di sicura bravura, ha dichiarato pubblicamente il suo lesbismo. Fino ad allora aveva avuto il privilegio di essere una tennista di buone capacità e prospettive per la quale si davano valutazioni tecniche ed agonistiche così come se ne davano per tutte le tenniste emergenti, senza che in lei ci fosse qualcosa di talmente particolare che giustificasse tanta attenzione da parte della stampa. Ora, dopo le sue dichiarazioni, tutta la sua vita è diventata di pubblico dominio. La sua infanzia, il suo legame con i genitori, la sua storia tennistica, le case dove ha scelto di vivere ed i suoi successi agonistici sono stati sezionati cercando forse qualcosa che lasciasse presagire quanto poi ha affermato. Ma le attenzioni non si sono limitate ad Amélie, anche della sua compagna sappiamo di tutto e di più. Sono stati riportati nei dettagli i diversi commenti tipo «Vive con una ragazza, quindi è per metà uomo», oppure «Mi è sembrato di giocare contro un ragazzo» e ancora «Il suo rovescio è tipicamente maschile». Per quel che mi riguarda, non spargerò benzina sul fuoco entrando in questo ginepraio di rivelazioni, smentite e scoop. Mi limiterò a dire che sono contenta perché un'altra lesbica vive bene il suo essere. Mi auguro che Amélie possa continuare a vincere competizioni tennistiche e spero che di lei si senta parlare presto, magari perché ha vinto il Roland Garros o Wimbledon. L'avete riconosciuta? È la nostra sigla della musica lesbica indipendente. Oggi volevamo parlarvi di Annie DiFranco. Forse per lei non si può più parlare di musica lesbica indipendente. I giornali pubblicano articoli su di lei, ha una casa discografica seppure piccola come la Rytus Baby Records e ha iniziato una tournée che la porterà per un po' in giro per il mondo. Eppure la sua musica e i suoi testi non sono mai banali e Annie continua a non lasciare spazio a troppe mediazioni e ad avere l'atteggiamento sfrontato e anticonformista di sempre. Lo stesso atteggiamento che per scelta l'ha portata ad essere conosciuta anche ai più solo dopo anni e anni di musica nei locali e di diffusione delle sue produzioni solo tramite circuiti alternativi. Ma sentiamo Annie nella registrazione di alcuni frammenti di brani che il coordinamento Lesbiche Romane ha realizzato il 17 marzo durante il suo spettacolo al Palladium di Roma, un concerto bellissimo che ci ha lasciate senza fiato per il rock creato principalmente dalla chitarra acustica di Annie, dalla sua tastierista e purtroppo da due maschi al basso e alla batteria. Ovviamente ci scusiamo per la cattiva qualità della registrazione, ma come immaginerete era proprio difficile ottenere di meglio. You bounce off the Thank you. come se già non bastassero tutti gli episodi di mala sanità che riempiono le cronache quasi giornalmente, volevo soffermarmi su un aspetto legato più alla cultura sociale che ad un caso specifico. Intendo dire che, come al solito, è la consuetudine a pensare che omosessuale è sbagliato a farla da padrone rispetto a reali e documentabili prove concrete. Mi spiego meglio. In questi giorni in televisione sta andando uno spot pubblicitario fatto, mi sembra, dal Ministero della Sanità riguardante la donazione degli organi. Si vede un cerino che si brucia lentamente e, proprio mentre sta finendo, con la sua ultima fiamma dà vita ad un altro cerino. Indubbiamente fatto molto bene e capace di far arrivare un messaggio di grande altruismo. La tua morte può dar vita ad un'altra persona. Per chi poi, come me, è donatrice di organi, lo spot risulta ancora più significativo. Però peccato. Peccato che lo spot non dica quanto si legge nel decreto ministeriale dell'aprile 93, dove si specifica che è fatto divieto assoluto agli omosessuali di donare organi. Il mio cuore, il mio fegato, le mie cornee e i miei reni non sono buoni, perché sono lesbica. Ma non finisce qui. Neanche il mio sangue può essere utilizzato, perché sono lesbica. E a dirlo è il decreto De Lorenzo del 15 gennaio 1995. Decreto De Lorenzo, ci ricordiamo tutte chi è De Lorenzo, vero? Inutile negare che lui con il sangue aveva molte affinità, quasi quante ne aveva Poggiolini con i lingotti d'oro. Ma la discriminazione culturale non è ancora finita. Nella normativa sanitaria italiana, guardando l'elenco delle malattie messo a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche, si legge l'omosessualità come una patologia, annoverandola tra le forme più gravi di malattia psichica, a fianco, ad esempio, della psicopatia con tendenze antisociali. A dispetto di quanto il manuale diagnostico internazionale degli psicologi e degli psichiatri ha riconosciuto, e cioè che l'omosessualità è una variante naturale del comportamento e una caratteristica della personalità. Per quel che mi riguarda, continuerò ad essere lesbica, donatrice di organi, e a pensare che forse una sentenza della Cassazione che vede in un paio di jeans l'antidoto per lo stupro sia socialmente molto più pericolosa che essere omosessuale e donare sangue. Ed ora, ovviamente, Ani Di Franco con un brano tratto dal suo ultimo CD, Up, Up, Up. Silent way. phone calls, the consoling cards and such. She appreciates all the people. Semplicemente lesbiche, ma in nessun modo lesbiche semplici. Questo è il titolo del dibattito dedicato al movimento lesbico in America Latina, che si è tenuto a Bologna durante la 7ª edizione del Festival del Cinema Lesbico Immaginaria. Isabel Castillo dal Nicaragua, Alejandra Novoa dal Messico e Mirka Negroni dal Porto Rico hanno tentato di far vivere alle donne presenti l'esperienza unica e difficile di essere lesbiche in Sud America. Di esserlo non solo per una scelta dettata dal desiderio, ma per una scelta politica e consapevole. Guerrigliera sandinista fin dai 14 anni, Isabel Castillo è ora una militante femminista e lesbica, membro attiva del Movimento delle Donne Nicaraguense e del Gruppo Permanente di Aiuto alle Donne, è stata inoltre la fondatrice del Gruppo per la Visibilità Lesbica e i Diritti Umani, contribuendo alla nascita della rivista Humanas. Non è da meno la portoricana Mirka Negroni, che all'interno della Commissione Internazionale dei Diritti Umani delle Lesbiche e dei Gay dirige il settore di monitoraggio della situazione delle minoranze sessuali in America Latina, in Canada e nei Caraibi di lingua spagnola. Istruisce e coordina volontari e studenti per i programmi sui diritti umani. Ed infine Alejandra Novoa, che in Messico dirige Telemanita, una videoteca nata per esplorare ed arricchire la cultura lesbica e per distruggere l'impostazione misogina ed omofobica dei mezzi di comunicazione. Telemanita e non solo, visto che Alejandra è militante del movimento femminista dell'America Latina e dei Caraibi e del coordinamento lesbico messicano. Ma sentiamo queste tre splendide donne ai microfoni del coordinamento Lesbiche Romane, ringraziando la nostra Lucilla, l'equipe di Immaginaria e la traduttrice Monica. Questa sera ci incontriamo con tre donne latinoamericane e quello che ci piace, vorremmo chiedere a loro è come vivono il lesbismo nei loro paesi. ¿Cómo viven ustedes el lesbianismo en vuestros países? Alejandra. Bueno, yo soy Alejandra Novoa, vengo de México. Alejandra Novoa, arrivo del México. El lesbianismo en México ha pasado a ser de... En nuestras leyes no existe... El lesbianismo en México es diventato, nel senso, en las nuestras leyes no existe... Ningún tipo de... statuto o norma. Non esiste nessun tipo di statuto o norma nella Costituzione messicana. Nella Costituzione messicana. Che penalizzi la sodomia o il lesbianismo. Che penalizzi la sodomia o il lesbismo, il lesbianismo. Anche in Italia è così, non ci sono norme. E in Italia sì, uguale. Ah. Però la realtà è sopra. Però la realtà è un'altra. Las lesbianas maggiormente soffrono una della invisibilità. Le lesbiche soffrono soprattutto primo della invisibilità. E quando esiste algún tipo di militanza e di attivismo lesbico, las lesbianas son reprimidas o en muchas maneras que no sean. Quando esiste qualche tipo di militanza o attivismo, le lesbiche sono represse in vari modi differenti. Por ejemplo, si tú eres una lesbiana abierta en tu trabajo, vas a sufrir algún tipo de represión o de hostigamiento dentro del trabajo. Por ejemplo, si eres una lesbica aperta en tu trabajo, sufrirás un cualquier tipo de represión en tu trabajo. Hostigamiento. Eso sí, me lo he dimenticato. Vas a tener también alguna cuestión directa, sí, de represión. Si estás haciendo alguna actividad política y pública. E avrai anche dei momenti di repressione diretta se hai un'attività pubblica. y que afecte algún interés del gobierno. Y que, appunto, interessi alcuni interessi del gobierno. Ahora, hay un centralismo en México que es pensar que las lesbianas o que todas las lesbianas vivimos en la Ciudad de México. Allora, c'è un centralismo in Messico che è pensare che le lesbiche vivano tutte a Città del Messico. Entonces, las lesbianas que vivimos en la Ciudad de México tenemos menos represión quizá que las de el interior de la República. Quindi, le lesbiche che vivono a Città del Messico hanno meno repressione di quelle che vivono all'interno della Repubblica. Por ejemplo, attualmente hay un nuevo gobierno en la Ciudad de México. Per esempio, attualmente c'è un nuovo governo a Città del Messico. De un partito dell'opposizione. Di un partito dell'opposizione. Che tomò a las lesbianas come bandera también para sus intereses políticos. Che prese le lesbiche come bandiera per i propri interessi politici. Y de pronto las lesbianas podemos tener conversaciones con el gobierno de la ciudad. E così improvvisamente noi lesbiche possiamo entrare in contatto con il governo della città. Pero nosotras no creemos que alguna parte de las lesbianas que somos autónomas, no creemos que esta actitud sea una actitud real y contundente de trabajo en contra de la lesbofobia. Pero que ha existido por todos estos años. No me acuerdo. No creemos. Però noi lesbiche autonome non crediamo che questo sia un vero e proprio eje de trabajo. No creemos che questa forma di attuare, di questo modo di fare di questo governo sia una vera e propria lotta contro la lesbofobia. E tu che invece vivi in Nicaragua, per te com'è? Per te che vives in Nicaragua, come es? Anche alla luce di tutte le lotte e della rivoluzione che c'è stata in Nicaragua, no? También, desde el punto de vista de todas las luchas de la revolución que hubo en Nicaragua. Sí, el movimiento lésbico en Nicaragua ha tenido una participación muy activa. El movimiento lésbico en Nicaragua ha avuto una participación muy activa dentro de lo que ha sido todo el proceso político, lo que ha sido la revolución y actualmente en todo el proceso político en toda la revolución y actualmente cabe decir de que tenemos la ley más atrasada y arcaica de Latinoamérica. Somos el único país, creo ya, que aún tiene en su constitución una ley que penaliza la homosexualidad. E attualmente bisogna dire che siamo sicuramente il paese in America Latina che ha le leggi più vecchie, più arcaiche. Credo che siamo rimasti l'unico paese che ha una costituzione che sta una ley dentro della nostra costituzione che penalizza che ha una legge che penalizza il lesbianismo attraverso della sodomia e la sodomia. A pesar, ¿verdad?, de que nosotros, el pueblo nicaragüense, ha habido un proceso revolucionario. A prescindere dal fatto che il popolo nicaragüense ha avuto un processo rivoluzionario. Donde se han desarrollado procesos democráticos que han normado. Dove si sono sviluppati processi democratici che hanno fatto legge. No? Muchos avances hacia la mujer. Che hanno raggiunto molti miglioramenti nella vita delle donne. Dentro de esa a pesar de eso, no hemos logrado romper, digamos, con este tipo de leyes que penalizzano la mujer. A prescindere da questo non siamo riusciti a distruggere queste leggi che penalizzano. Pues las lesbianas allá vivimos de una manera muy dentro del closet. Pero, quindi le lesbiche vivono nel closet. Que no puede ser evidente, no puede visibilizarte porque hay un terror con esa ley que existe. No puede ser evidente, no te puedes render visible porque c'è terror con esta ley que existe. Y por tanto, el desarrollo del movimiento lésbico es muy lento. A pesar que el movimiento de mujeres es muy grande. E quindi lo sviluppo del movimento lesbico è molto lento, anche se il movimento delle donne è molto grande. Entonces es una contradicción porque las lesbianas estamos ahí empujando ese proceso de las mujeres. Quindi è una contraddizione perché noi lesbiche stiamo spingendo il processo delle donne. Pero a la hora que reivindicamos nuestra identidad estamos solas. Pero en el momento en que reivindicamos la nuestra identidad, siamo sole. E qualcosa sulla realtà di Porto Rico, ma anche qualcosa rispetto alla carica che tu hai nella Commissione internazionale per i diritti dei gay e delle lesbiche. Ok, no. Queríamos preguntar algo sobre la condizione in Porto Rico y algo sobre tu carga, sobre lo que haces tú en la Commissione internazionale de los derechos humanos de gay y de lesbiana. Como agregada regional. Come aggregata regionale della Commissione Internazionale dei Diritti Umani tra gay e lesbiana della Commissione Internazionale dei Diritti Umani di gay e lesbiche lavoro a favore de los derechos humanos. Lavoro a favore dei diritti umani de gays y lesbianas de gay e lesbiche in America Latina Estados Unidos Stati Uniti Canada y el Caribe hispano parlante e i Caraibi parlanti spagnolo di lingua spagnola Trabajo con grupos. Lavoro con gruppi. Gays, lesbicos. Gay o lesbici. También con grupos que trabajan con personas que son VIH positivo. E anche con gruppi che lavorano con persone sieropositive. Y en el caso específico de Puerto Rico. En el caso específico de Puerto Rico. He estado trabajando con la coalición en contra del artículo 103. Ho lavorato con la coalizione contro l'articolo 103. El cual condena el sexo entre personas del mismo sexo. Que condanna el sexo tra persone dello stesso sexo. Es una de las pocas leyes de sodomía, como se le conoce coloquialmente. Es una delle poche leggi sulla sodomía, come si chiamano normalmente. Que aplica tanto a lesbianas como a hombres gay. Que è applicata sia a lesbiche che a uomini gay. Y surgió la situación un poco cómica, ¿no? E quindi c'è una situazione un po' comica de que una compañera lesbiana, una compagna lesbica, mientras estaba dando testimonio en frente de la asamblea legislativa, mentre stava relazionando di fronte all'assemblea legislativa, se le preguntó que si era lesbiana. Gli chiesero se era lesbica. E ella dijo que sí. E lei disse sì. Habían presentado otras personas en el curso de la semana y a nadie se le había preguntado su orientación sexual. Avevano parlato altre persone di fronte a questa assemblea durante la settimana, ma a nessuno era stato chiesto la sua orientazione sessuale in quel punto. Al ella salir, se presentó frente a la fiscalía para que la arrestaran. Trató de que la arrestaran. Déjame, ¿cómo te explico? No me he enterado, repite solo porque no estaba escuchando. La hostigaron. Los asambleístas la hostigaron, le dijeron, ¿sabes tú que es un crimen ser lesbiana? Ah, sí, quelli che facevano parte dell'assemblea gli dissero, ma non sai che è un crimine essere lesbica in Puerto Rico? Pero nosotros nos hemos portado bien y no te vamos a llevar a la cárcel. Pero siamo buoni e non ti porteremo in carcere. Entonces, ella se presentó en frente de la fiscalía. Ah, allora lei si presentò proprio a quello che era la rappresentazione giuridica, con carabinieri, la polizia, insomma. Y dijo, yo he cometido un crimen, arrestenme. e disse, io ho commesso un crimine, arrestatemi. L'avvocato. Ah, l'avvocato incaricato. Dijo, no, porque no hubo miembro viril. E disse no perché non c'è stato un membro virile. Ahorita mismo se han reunido un gruppo di mujeres y hombres gays y lesbianas. E ora in questo momento si è riunito un gruppo di donne e uomini gay e lesbiche. Y tienen un caso en frente de la Corte Federal. Tratando de quitar la ley de sodomía. Hanno fatto un caso di fronte al Corte Federale cercando di togliere la legge sulla sodomia. Ho capito. È un lavoro molto interessante. Invece le condizioni economiche. Le condizioni economiche. In America Latina, per esempio, quanto incidono? Quanto impacta la situación económica a la sí. lesbiana sí. En su vida cotidiana. En su vida de sí. okay. Yo creo que por la cuestión de la discriminación en el empleo, pero la cuestión de la discriminación en el laboro afecta de una manera especial a las personas gay, lesbianas, transexuales. Interesa en manera proprio particolare a gay e lesbiche. Se le hace más difícil conseguir trabajo a la gente que es abiertamente gay y lesbiana. Es più difficile trovare lavoro per le persone apertamente gay e lesbiche. En un ambiente donde es difícil para todo el mundo conseguir trabajo. In un posto dove è difficile per tutti trovare lavoro. Dopo tanto Sud America, non potevamo che farvi ascoltare ECT di Cassia Eller. Tava con cara che carimba postais. O descuido abriu uma carta que voltou. Tomou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo crack, colante, dinheiro, parque embrulhado em papel, carbono e barbante. E até cabelo forcado, retrato de 3x4 pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Tava em casa, vitamina pronta. Ouvi no rádio a minha carta de amor. Dizendo eu caso contente, papel passado e presente. Desembrulhado o vestido, eu volto logo, me espera. Não brigue nunca comigo, eu quero ver nosso filho. O professor me ensinou fazer uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo crack, colante, dinheiro, parque embrulhado em papel, carbono e barbante. E até cabelo cortado, retrato de 3x4 pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Tava em casa, vitamina pronta. Ouvi no rádio a minha carta de amor. Dizendo eu caso contente, papel passado, presente. Desembrulhado o vestido, eu volto logo, me espera. Não brigue nunca comigo, eu quero ver nosso filho. Fazer uma carta de amor. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. Gli appuntamenti. Dal 16 marzo al 1 aprile presso l'Accademia Britannica di Roma è in scena la rassegna Sweetie, l'identità femminile nel video inglese. 30 sono le artiste selezionate da Cristiana Perrella e Maria Rosa Sossai. Tutte meno che dolci, a dispetto del titolo della rassegna. Queste artiste parlano di solitudine, di sesso, amore e dolore, cercando al tempo stesso una risposta plausibile ai grandi interrogativi dell'esistenza. Il videotape si propone loro come lo strumento per raccontare sensazioni ed emozioni. Le protagoniste della rassegna non preferiscono essere incasellate nello stereotipo femminista. Lo spirito di fondo è quello di suggerire una prospettiva femminile. Tra i titoli in programma, Back Gomb di Sara Pusil, proiettato ad Immaginaria nel 98. English Rose, una sorta di fotoromanzo dove ogni protagonista assume l'identità dell'altra, offrendone un ritratto sopra le righe. E infine un videoclip di Should I Stay or Should I So dei Clash, dove si sono cimentate Angela Ballock e Sylvie Fleury. Allora, come va? Spero bene. A proposito, non mi dispiacerebbe se qualcuna di voi si facesse sentire. Così, anche solo per dirci salve, vi sto ascoltando. Poi potete pure riattaccare, non ci offendiamo. Se poi qualcuna vuole pure dirci qualcosa, sappiate che ogni consiglio, ogni richiesta, ogni spiegazione, ma anche ogni critica sarà bene accettata. Chiaramente le critiche dovranno essere motivate, specificate e suffragate dall'apposita documentazione in triplice copia, ovviamente in carta da bollo. Sto scherzando, dai. Potete veramente dirci tutto ciò che vi passa per la testa, però, insomma, diteci qualcosa. Vi ricordo che noi siamo sempre qui in radio e tutto sommato il telefono è facile facile. Basta digitare sulla tastiera dell'apparecchio telefonico lo 06 49 17 50. Ma le possibilità di mettersi in contatto con noi non finiscono qui, ormai penso l'abbiate capito, siamo lesbiche dalle mille risorse. Finalmente il trasloco al centro femminista separatista di via San Francesco di Sales 1B è stato effettuato e, a parte tutti gli scatoloni ancora da sistemare, a parte l'assenza di riscaldamento, a parte l'odore forte della pittura dei muri, a parte l'inconveniente di dover dividere un'unica stanza con altri gruppi politici, a parte le macchie di umidità sui muri che forse sono più resistenti di quanto il lavoro di ristrutturazione veloce del Comune di Roma avesse previsto, nonostante tutto ciò, e ribadisco nonostante, miracolo, il telefono funziona. Vi ricordo il numero 06 68 64 201. Noi ci riuniamo il lunedì a partire dalle 20:30, ma è sempre attiva la segreteria telefonica. Per quelle più timide o per coloro che ci ascoltano da fuori Roma, sto pensando per esempio alle donne che ci ascoltano sulle frequenze di Radio Sherwood che trasmette nel Triveneto, c'è anche la possibilità di inviarci un fax. Il numero è lo stesso, 06 68 64 201. Per gli amanti dell'informatica c'è sempre il nostro indirizzo di email, clr50@hotmail.com. A questo punto, cosa aggiungere se non aspettiamo vostre notizie? Densa di un'atmosfera come al solito unica, si è conclusa il 28 febbraio a Bologna la 7ª edizione del Festival del Cinema Lesbico Immaginaria, che ha visto il Coordinamento Lesbiche Romane ed il Martedì Femminista Autogestito protagoniste, insieme alle francesi della Très Grande Télévision Lesbienne, del dibattito La Controinformazione e di Media di Comunicazione. 750 e provenienti da tutta l'Italia, dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Germania, le donne che hanno partecipato ad Immaginaria. Di buon livello la programmazione, con 58 film provenienti da ben 13 nazioni e, grazie allo sforzo delle organizzatrici, per la prima volta ogni film è stato proiettato con i sottotitoli in italiano, invece che con la consueta traduzione simultanea, a vantaggio di una migliore comprensione dell'opera originale. Per il premio del pubblico, nella categoria narrativi, ha trionfato l'originalissimo cortometraggio tutto italiano Rapido Finale con Passione, di Luchi Massa. Un trionfo anche nella categoria documentari per Love Story, della regista inglese Catherine Clay, presente come ospite al festival. Il film era dedicato alla difficile storia d'amore tra una ebrea ed una tedesca a Berlino durante la Seconda Guerra Mondiale. Per la categoria sperimentali ha vinto il divertentissimo Corazon Sangrante della messicana Ximena Cuevas, un cameo tra i numerosi titoli provenienti dal Sud America che l'equipe di Immaginaria quest'anno è riuscita a scovare. L'equipe ha poi meritatamente assegnato il premio speciale Immaginaria alla regista italiana Cristina Vuolo per il suo A piedi nudi, dedicato all'esperienza di Silvana Manni e Laura Guadagnin, proprietarie di Terra di Lei, quell'angolo dell'Umbria che da anni è appannaggio esclusivo delle donne. Sulla bollettina di marzo pubblicata dal CLI di Roma leggiamo che l'associazione Femmes Entre-Elles di Rennes si è costituita parte civile nel processo per stupro subito in quanto lesbica da Sophie Thibault nel 97 a Montreuil. La causa sarà perorata da un'avvocata della Coordination Lesbienne, Isabelle Stalier. Potete inviare messaggi di solidarietà a Femmes Entre-Elles, 17 Rue de Gascogne, 35 700, Rennes. Fax 00 33 2 99 54 10 81. Fino a qualche anno fa il Sudafrica era il paese in cui le coppie potevano essere solo rigorosamente eterosessuali e della stessa razza, in omaggio alla pruderie calvinista e alla politica dell'apartheid. Oggi, anche in virtù di una delle costituzioni più avanzate del mondo, il Sudafrica di Nelson Mandela riconosce perfino le unioni omosessuali, al punto che nella lista ufficiale dei diplomatici accreditati a Pretoria sono recentemente comparsi, quale coppia a tutti gli effetti, Hans Klawitz, addetto commerciale dell'ambasciata olandese, e il suo compagno di vita Raul Garcia Lau. Ma anche se l'apartheid e il suo puritanesimo sono ormai solo un ricordo, gay e lesbiche sudafricane non si accontentano dei recenti successi in termini di parità e hanno fondato un partito, la South African Gay and Lesbian Alliance, che si presenterà alle elezioni politiche del 2 giugno. Nel rapporto annuale pubblicato dall'ILGA, International Lesbian and Gay Association, sui diritti umani per il 1998, si leggono dati terribili. In Brasile ogni 6 giorni si uccide un omosessuale, in Messico ogni 15, nel resto del mondo in media ogni 3 giorni. In Europa ben 13 paesi danno come non pervenuta l'esistenza delle lesbiche e uno, il Vaticano, quella dei gay. In Romania è illegale solo il lesbismo, negli USA l'omosessualità è illegale in alcuni stati e in altri sono illegali le pratiche di sesso orale e anale, anche se compiuti da eterosessuali. Questi dati sono reperibili sul sito internet http://www.pangea.us.a.org/org/cgl/ILGA. Ciao a tutte! Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.